Radio 24 Reportage. Da Rio a Rio, il Brasile tra i mondiali e le Olimpiadi 2016, di Dario Ricci. E la Germania è campione del mondo! La Germania è campione del mondo! 24 anni dopo il 1990, ancora contro l'Argentina, ancora per 1-0, questa volta non con un rigore, ma con un gol di Götze. Eccola la grande festa del Maracanà, ma nel tempio del calcio mondiale non è stato il Brasile padrone di casa a farla quella festa. Prima il KO dell'asso Neymar, poi il Mineirasso, il tracollo proprio contro la Germania in semifinale al Mineirao di Belo Horizonte. Unica magra consolazione il fatto che i Panzer abbiano poi negato il trionfo a Los Hermanos argentini. Sarebbe stato davvero troppo. E ora i riflettori del Maracanà si sono spenti. Fino a ieri Rio de Janeiro era la capitale del calcio mondiale, con l'obiettivo di tenere per sé quella Coppa del Mondo. Sogno diventato incubo e ora sono tornati i problemi e le contraddizioni di sempre, che in realtà via per davvero non se ne erano mai andati. Eu acredito que o Brasil se superou ao organizar essa Copa. La presidenta Dilma Rousseff sperava di giocarsi il jolly del successo mondiale nell'urna delle elezioni presidenziali previste in autunno. Speranza negata dalla Seleção e allora ripiega difendendo il successo organizzativo del suo Brasile dalle critiche di scettici e pessimisti. Successo relativo, viene da dire, perché tra proteste sopite, cantieri aperti, infrastrutture non terminate, corruzione, aumento vertiginoso dei costi e dell'inflazione, la macchina organizzativa ha tenuto rispetto al crack ipotizzato da molti. Ma ora c'è da fare i conti con quello che il Mondiale lascia al paese e il bilancio presenta a dir poco parecchie voci al passivo. Dall'Amazzonia al Nord-Est, a Rio, a San Paolo, la contraddittoria eredità della Coppa è ora sotto gli occhi di tutti. Marco Volpato è un ricercatore italiano che da più di un anno studia presso l'Università de Amazonas e vive a Manaus, città di oltre 2 milioni di abitanti. Qui, dove gli azzurri ottennero l'effimero successo sull'Inghilterra, i problemi sono rimasti quelli precedenti alla Coppa. È molto, come si dice, gritante la differenza tra le esigenze del popolo, della classe bassa e l'infrastruttura che è stata creata per questo mondiale esclusivamente per poche partite, quindi diciamo il beneficio che riceverà la comunità, la popolazione da questo mondiale sarà praticamente nulla, diciamo, se non in termini di visibilità perlomeno. E quindi i problemi della città sono parecchi: mancano le infrastrutture, l'acqua potabile, nonostante siamo ai margini del fiume più grande del mondo, qui non c'è acqua potabile, bisogna comprarla, e quindi è molto inquinato. Dentro la città c'è un livello di inquinamento molto, molto alto. Gli incidenti, il traffico crea incidenti, crea morti tutti i giorni e non se ne parla, perché sono altre le cose che desviano l'attenzione da questi problemi. Se fino a ieri Rio de Janeiro era il cuore del mondiale, oggi è soprattutto e di nuovo Rocinha, la più grande favela della città. 150.000 persone che ci vivono tra fogne a cielo aperto e gravi carenze sanitarie e scolastiche. Su una delle vie d'accesso alla favela campeggia una scuola dedicata da Ayrton Senna. Ma basta voltare lo sguardo sull'altro lato della strada per capire cos'è Rocinha, come ci ricorda Barbara Olivi, che da anni sviluppa nella favela programmi socio-educativi per gli adolescenti con la sua associazione Il Sorriso dei Miei Bambini. In effetti la Rocinha è la favela, considerata la favela più grande del Brasile, è in una zona di facilissimo accesso, è davanti agli occhi di tutti, è considerata una delle favele di condizioni di vita migliori, eppure figura delle nicchie di povertà e delle nicchie di abbandono spaventose. Questa scuola è sotto gli occhi di tutti, è lungo la strada principale, eppure davanti all'ingresso della scuola c'è lo scolmatore della fogna di tutta la comunità. E quindi è un messaggio neanche tanto sublimato: studia, studia, tanto cacca sei e cacca rimani. E dopo i mondiali, fra 2 anni, nel 2016, Rio ospiterà le Olimpiadi. Solo a pensarci, Barbara non è certo felice, visti i problemi rimasti insoluti col mondiale di calcio. Sinceramente un conto molto caro da pagare, perché tutte le strutture pubbliche, tutti gli appalti pubblici sono stati razziati, c'è stata un'indecenza incredibile di soldi spariti, la città è diventata molto cara, la vita in favela è aumentata, gli stadi non sono più accessibili, i trasporti pubblici non funzionano, per cui purtroppo l'eredità sarà veramente cara da pagare. Non scordiamoci che per noi non sarà finita, perché da qua a 2 anni ci saranno le Olimpiadi e quindi tutta questa farsa continuerà per altri 2 anni. Dalla gente comune arriva quindi una bocciatura solenne, ma anche i numeri bocciano chi ha sostenuto la retorica del grande impatto economico dell'evento mondiale. Ludovic Subran, chief economist di Euler Hermes, ha realizzato uno studio relativo proprio all'impatto della Coppa sull'economia brasiliana. L'impatto positivo del mega evento che è la Coppa, il campionato del mondo di calcio, non si vedrà nella crescita del PIL del Brasile, perché il paese è troppo protezionista, perché alla fine il mega evento che è il campionato del mondo avrà più delle conseguenze in inflazione dei prezzi che nella crescita proprio del paese. Io penso in parte al Brasile sull'infrastruttura, che alla fine non c'è abbastanza infrastruttura per avere una connettività del Brasile al mondo, penso al lavoro, alla possibilità per i giovani di Brasile di avere nuovi lavoro, posti di lavoro, e alla fine l'occupazione, per esempio, tanto come il PIL, tanto come il infrastructure gap, proprio il bisogno del Brasile di avere più delle strade, dei rapporti, degli aeroporti, della logistica, tutto quello non sta per succedere in Brasile, perché alla fine è un paese che è stato molto protezionista, che è molto difficile per gli esportatori italiani, come francesi, come tedeschi, di avere un mercato, degli sbocchi. Gli errori fatti saranno quindi pagati a lungo. Ma è pur vero che da quegli stessi errori potrebbe nascere una nuova consapevolezza nella classe politica brasiliana. È quanto si augura l'ambasciatore italiano in Brasile, Raffaele Trombetta. I costi sono stati ovviamente una dei bersagli, delle critiche principali che chi ha manifestato in questo periodo ha appunto rivolto alle autorità del paese. Cosa lascerà questo mondiale? Ancora presto per dirlo. Potrebbe lasciare proprio questo, magari un ritorno più, come dire, etico, civico, che magari in termini economici, nel senso che un paese e quindi anche un popolo che si diverte ancora e continuerà a farlo, ed è giusto che sia, con il calcio, ma che anche però sa che il calcio non è tutto. Quindi se ha dei diritti che magari non sono pienamente rispettati, o comunque insomma delle esigenze che possono essere meglio realizzate, è giusto insomma che questo lo faccia valere. Le elezioni presidenziali ora sono alle porte. Che effetto avrà il flop calcistico sulle urne e sui giochi di Rio 2016? Come ne uscirà la presidenta Rousseff? Sergio Giuntini, storico dello sport, prevede un periodo di grandi turbolenze. Aveva risalito un po', come dire, nel grado di popolarità all'inizio del mondiale, dopo le polemiche, dopo le grandi proteste dell'anno precedente, perché tutto sommato, diciamo, da un punto di vista logistico, organizzativo, le cose erano andate meglio di come si temesse. Però questa sconfitta avrà un significato, secondo me, epocale, cioè, e soprattutto si ripercuoterà sulle prossime Olimpiadi, perché io penso che se anche la Rousseff verrà riconfermata dalle prossime presidenziali, avrà come ultima spiaggia le Olimpiadi del 2016. E quei 2 anni, secondo me, saranno tra il 14 e 16, saranno molto turbolenti per la sua presidenza. Ludovic Subran è più cauto, ma al tempo stesso più deciso nell'invitare il Brasile a prendere con coraggio una nuova strada. Un cambio di rotta che la classe dirigente brasiliana dovrà avere la forza di indicare e guidare. E io penso che la presidenta Rousseff sarà certamente rieletta, non è che io penso che la popolazione del Brasile è molto legata a lei, perché ha fatto tutti questi programmi, ha continuato tutti questi programmi che aveva iniziato Lula sulla riduzione della pobrezza, e dobbiamo ricordare che il Brasile è anche un paese ancora molto povere, e quindi io penso che ci sarà un cambiamento della struttura delle politiche economiche. Io penso che il campionato di calcio sarà un'opportunità anche per ripensare il business model del Brasile, quindi io penso che l'unica forma ad ottobre per il partito di guadagnare l'elezione sarà di suggerire al popolo di Brasile una forma di crescita che sia anche una connessione, un'integrazione alla crescita mondiale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.